devi usare la banda cittadina, già solo le verticali vanno bene, capito? Ma questa, guarda che questa va benissimo, mi sta dando grande soddisfazione, così come l'ho fatta il di lusso. Ma mi deve essere da fuori, capito? Portatore, se coso, usi per dire, uri, tutte le zone lì. Ma bisogna sempre provarla con gente che è in casa, cazzo, non vuoi mai nessuno. Cazzo, quelli di passaggio sono in macchina, come l'altro giorno quello che, cazzo, non ricordo chi era, che era lì vicino al Delfino, non ricordo chi era. Lo sentivo benissimo, capito? Però se non provi con qualcuno in casa non puoi mai rendere attendibile un segnale da una macchina. Vabbè, non c'entra niente, poi se senti gli altri in macchina si deve sentire anche a te, no? Per dire, sento Gio Maria che ha di baci da te, devo sentire bene anche a te o no? Quello sì, quello senz'altro, ma dico, un segnale come si deve, è meglio che te lo dia uno da casa con un'antenna, appunto, come si deve, che non uno in macchina con un'antenna da mezzo metro. Quelli io non li ritengo attendibili i segnali per prove antenna. Io con l'antenna da mezzo metro la stessa arrivo 9.10. Dove? La stessa è 9.5, 9.10. Va bene. Adesso bisogna aspettare che qualcuno moduli da Portatore, Salghero, Musini, appunto, come dicevi tu, Uri. Poi l'altra chiusura, tu nel 2001 è come avere un amante qua sul tetto. Beh sì, alla fine sì. Cioè la ricezione è un amante, e anche la trasmissione va benissimo, solo che è troppo alta, ma adesso d'estate me la piazzo perché c'è da fare gli ex, quindi mi serve un'antennone. Ah, non la stai usando adesso? No, sto usando quella che ho autocostruito io. Ah, ok. Vabbè, poi in estate monti l'altra. Ma l'hai vista l'altro giorno, quella che c'ho montata in macchina? Ah, quella da 75 cm, ma spara che cosa male, io ho fatto di ex con quell'antenna. Ah, ho parlato con la Turchia una volta, dalle curve sotto di Bidriate sino a Porto Torres. Mi ha accompagnato un turco. Addirittura. Con la propagazione in estate. Questo qui che dice il mare, c'è un po' quello a fare, c'è tutti i buoni, chi sa Biana, chi venti, dove c'è Monterraso lì, entri, c'è una stradetta, ti vedi in quella piana lì c'è tutto il mare di fronte. Beh, finito arrivare va. Penso di sì, io sono entro casa adesso. E oggi me ne sono uscito perché erano tutti malati prima che mi ricordo di nuovo quel virus. Ui. Cazzo, mi stanno lacrimando gli occhiali, ma non so se sono gli occhiali. Cazzo, lascio io. Mi sto guardando un film. Non sono 10, hai trovato benissimo in casino. Adesso girate, siete qua. E io ho provato su 10, non c'era nessuno, ho fatto anche chiamata per più volte. Ho visto che non rispondeva nessuno, ho chiamato qua, c'era Luca. Capito? Ma a me andare su 10 e andare qua è la stessa cosa, non è che sia un problema. In 10 c'è meno rumore, ma oggi non vi mai, no? No, quando hai chiamato tu, che ho fatto, ci sono io. Tu sei fallito, deve essere che hai spostato al 5. Perché questa che non rispondeva, no, che credo non sia l'ascolto tra me o passato. No, c'ero. Oh, era anche a volume alto. Stavo girando. E niente. Poi sono uscito mentre stava parlando Antonio con Massimiliano, ho detto un attimino che scoprire le mie sigarette, ma sono andato qua da via Panabasso, non c'è tabacchino. Sto tornando da sopra, tutta l'antenna piena di corti, la direttiva, proprio tutta sopra, l'ultima direttiva che ho, sono tre direttive una sopra l'altra, tutta piena di corti. Allora subito ho messo a girare, l'ho fatta girare a destra e a sinistra, sono sceso giù a guardare e sono tutti spariti, è una cosa allucinante. Ma e ti droncano in tutto. Dici, guarda, io se non l'avessi visto non ci avrei creduto. Una volta nell'antenna della Buonanima in Torelai ho visto una cornacchia giocando con il radiale. Praticamente sai cosa faceva? Si teneva con le zappe, si metteva la pancia in giù e si faceva girare. C'è pure un'altalena, usci. L'altra volta che ti ho detto sono attenuato di 20 dB, non sentivo proprio niente. Sono salito su e c'era il direttore, perché c'è il direttore e il riflettore dell'antenna. Il direttore è completamente piegato, quasi me l'ha rotto, capito? Mi ha praticamente piegato la staffetta di sostegno, perché sono delle staffette in alluminio leggero. Quando iniziano a mettersi 4-5 curve sopra a ballare, perché si aprono le ali, si spiumano, che cazzo, non ne so cosa fanno. E me l'ha piegato, l'ho messo a posto, ma va a venire 5 o 6 d'ora, ne ho mattesi il radiale, però siccome ha piovuto sono tutte bagnate le cornacchie, pesano ancora di più. Cazzo diavolo, è una cosa allucinante. Poi adesso c'è il dipolo, è 35 metri, mettiti sopra il filare, ti puoi mandare a tutti i viaggi, sopra i radiali della Mantova, sopra la cattola verticale, no, sopra la direttiva se ne va. Allora l'ho fatta girare un pochino, perché arrivano 12 volte al rotore, quindi sicuramente loro la sentono, la scarica leggera leggera, e si sono tutti in bocca in volo. Ma non ci ha fatto l'appoggio chi? Cazzo, ma è una cosa allucinante. Poi sono, quelle direttive sono un bel leggere, se si mettono sopra il bunker da 4 metri, se uno scatolato in alluminio grosso non le fa niente, no, cazzo, sopra i radiali si mettono, è una cosa allucinante, è una cosa allucinante. Adesso Luca mi ha detto di comprare questo cazzo di coso, mi sa che lo compro e glielo metto attaccato alla direttiva. Cosa di lui? Guarda, sono lunghi 1,01 m, non pesano niente praticamente, sono leggerissimi, e gli elementi, quanto è lungo il radiatore o il riflettore dove si calano, li metti lì, guarda, è risolto del tutto, e sono leggerissimi, non dà fastidio né a girarla l'antenna né a niente. E cos'è questa cosa? Parapassi lì. Tipo spaventa passi. No, sono delle stecche in plastica, leggerissime, con delle punte, capito? Con delle punte di 5, 6, 7 centimetri, sempre in plastica, e li mette, gli ho detto, lo mette sull'antenna lì dappertutto, dove vuole, intanto non pesano niente, con una punta di silicone, oppure con le faccette da elettricista, perché sai perché è meglio la faccetta, perché quelli col tempo, il caldo e il freddo si spezzano dopo 4-5 anni, sicché non fai altro che tagliare la fascetta e rimetterli nuovi, costano i 60 centesimi uno, mi pare. No, io ce li ho le fascette, ce le ho, non le uso mai, io silicone, non le uso mai. E già c'ho le fascette, metto le fascette, domani mattina vado, e me lo lungo pareggio questa cosa, per un bombo, sia nel radiatore, nel riflettore, in punta, cioè non si può, cazzo, perché poi una rottura di balle, ogni volta devo abbassare il palo ascensore, staccare i cavetti d'acciaio, cazzo, una rottura di balle che non viene bene. Un maniglione per attaccato, non ho reato, un cavallotto con due dadini che è di alluminio perché non si può mettere altro, e me lo piegano sempre. Io ho comprato una quindicina di scorta, perché tanto mi piegano sempre quello lì, non vedo nulla da là. Oramai sono abituati alle direttive, si bossa in altre direttive e scommettono a ballarsi le balle, capito? Ecco, questo è uno spaventapasso di sopra il tetto, cazzo, così non si terrà in. Già ho riempito il tetto di riso, il riso è quello che si dà per i tutti, no? Quello lì. Beh, ce ne manca più della metà, cazzo, non ho visto un piccione o un corvo morto, nulla. Dove si va a ingrassare? Ma è veleno, capito? È riso velenoso. Ho messo tutto agli angoli, sparso per il terrazzo, non ha giubilato una butta dall'impianto di sorso. Cazzo, se l'hanno mangiato più della metà, non ho visto un piccione e un passero morto, nulla. E magari sono morti, magari sono volati da lì e sono morti da altre parti. Sì, ma se muore lì e rimane sopra il tetto, non ci vengono più loro perché vedono che c'è il corvo morto, capito? Non ci vengono più. ci vendono più. Stavo pensando lui, ma se ne compro uno di chi si papperette, che cosa, la piccola baro di dove c'è la gabbia? Papperette. E lui che si fa di pratica. Ah, parapassoli. Ehi, padre, sono di un metro l'uno e sono larghi circa 2 centimetri, 1,5 centimetri, la base. Dove vuoi, guardate, tanto li puoi piegare anche come vuoi, eh. Però di qui cosa devi fare? Prendi un cappello vecchio, che se quattro orrucci, allora lo vai come tira grossi, usci e da lui si muore un barretto e una giacchetta vecchia, insomma. Ora che non mi viene di più. Cazzo, voi ci chiamano anche giro del fuoco, di anche voi siete come abbiamo barato. Sono tutti fatti a uccelli così, appeso alla gabbia della direttiva, cosa dici? Scusa, ma stiamo parlando insieme, ho sentito solo la direttiva. E ho detto, se comprano quegli affari di plastica, uno di quegli uccellini di plastica, qualcosa del genere, dai, e l'appendo alla gabbia del rottore, pensi che non ci vengano? Non lo so, io ti parlo di questo, è garantito al 100% questi cosi qua, perché li ho usati anche in continente, ma li stanno usando anche qua nelle grondaie nelle curve dei tubi, cioè dalla grondaia poi il tubo fa la curva, in quel pezzo di metro di tubo si mettono i piccioni la notte, li mettono anche lì se non si calano più. Oh, vedi tu, devo scogettare qualcosa nel rotto del balle. Nella mansarda a fianco di mio amico dell'altra scala ha verniciato tutto, perché anche lui sta facendo tipo il lavoro che sto facendo io. Ecco, ha verniciato tutto già, ha lasciato le finestre aperte per arieggiare, per asciugare prima, no, perché ha verniciato a poco. Cazzo, sono entrati dei piccioni, sant'Antoli mio, cos'hanno fatto dentro? Hanno fatto la casa nuova. Hanno cagato tutto, muri, aveva già iniziato a portare un po' di arredamento, hanno distrutto tutto e disipirato. Anche il cappallone, non so dove cacchio entrava, ci facevano i nidi, tutto cagato, un casino. Dopo l'ha avvisato il mio collega, ha avvisato la gabbia e ha messa di tutto. Ha detto il veterinario che abita qua, che sono portatori di malattie ai piccioni. Sì, è vero. Ne porta un bel malattie. C'è anche più tutto. Vichifo, baccari dai, hanno fatto un casino dietro, è disipirato, poi hanno cagato proprio sopra i mobili, lui non aveva messo il nylon, quindi sono tutti i mobili macchiati, ha provato a togliere la cacca del piccione, cazzo, ne esce pure la vernice dall'acido di ferro, allucinante. Non vuoi fare cose, se ti cagano la macchina mi si mette a lavare, perché se no non esci più. Chi da Roberto, ma che ho verniciato il cofano? C'era una macchia di piccioni, oh, ma sono accorto, dai, domani la tolgo, l'ha tolta dopo 2 o 3 giorni, ha lasciato la macchia, proprio la macchia, ha dovuto verniciare il cofano, farlo tutto la parte abrasiva e poi darle trasparente. Sì, brucia il trasparente, brucia. E proprio ha bruciato il trasparente, ne è uscito tutto e si vedeva questa macchia bianca contro luce da fare schifo al centro del cofano. Ha voluto ridare tutto il trasparente. Ma non è sulla cappotta, ho provato anche a lucidarla, ma non è. L'ha provato prima con la pasta abrasiva, Roberto, non è uscito, allora ha dovuto rifare tutto il cofano. Ma si è detto la proposita, Roberto? Sì, ieri c'era il radio. Ah, vero? Non ho sentito io. Sì, ieri è entrato 10 minuti a fare scaldare le radio. Lei è un po' impegnato, adesso il padre è un po' assente e si occupava di altro, capito? Hanno rimodernato tutta l'officina comunque, tutta riverniciata, insegne nuove, insomma stanno cambiando un po' il modo, va. Prima era come ce l'aveva il padre, d'acqua. E aveva un'altra mentalità, comunque i padroni sono sempre loro. sono lui e Danilo, però l'hanno fatta molto bella adesso, molto più arieggiata e veneggiata diversamente, insomma, c'è rispatio, hanno tutto queste pareti che c'era, disegna nuova, molto bella. Sì che c'è, però non scende più come prima, capito? A parte l'età, comunque è stato male, perciò ogni tanto già scende, ma allora devono accompagnare ancora. Vabbè, lui si è un po' lasciato andare quando è morta la moglie. Giovannino era molto, molto attaccato, quindi un po' si è lasciato andare, lo stress, la cosa, ha studiato che poi farebbe, ma comunque c'è un uomo abbastanza forte. Ho visto già stare prendendo piano piano, non è più come prima, però insomma già c'è, l'importante che ci sia. Cappa, rimango perplesso da questo tuo segnale, Luca, minchia, cazzo, una cosa allucinante, sì. Sempre uguale, semplice, fino a che tutto a uno, il stazionario. Bello, bel segnale, 9:20 pieno, sì, un picchio a 22, Gianni è 23, un picchio a 25, ti avvicini molto al suo segnale, ma vabbè, Gianni dipende dalla potenza che sta usando. Va molto bene, ma deve essere buona anche come ricezione, sicuramente, perché ho visto che ricevi molto bene, vabbè io sono a 30 watt, 20 watt, la città già va bene. Abbiamo messo 3 watt, 4 watt. 4 sì, mi sembra che sia con 3-4 watt. Stavamo guardando l'altro giorno con Claudio, quando io premo il pulsantino HI Love, che c'è qua, nel mobico, guarda, cambia di 10 se non sbaglio, me l'ha detto Claudio, da così a così. E in vicinanza non è che ci veda molto. Cambia. Che fai passaggi? Da così come adesso, a così. Allora, in questo caso mi accende 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED. 6 LED senza modulare, se modulo va, si accendono tutti. E così, invece nell'altra posizione, me li accende tutti. Non so, 5 watt, Luca, che su così, secondo me è pompato. Sì, ho detto, lui, è possibile che siano 3-5 watt, il cazzo passi da 9:15, quasi a 9:25 qua. Asco, io sono con 80 watt, te lo sto dicendo, 80 watt modulati, e più o meno siamo vicino a 9:30. Faccio 80 watt. Ma adesso mi sto dicendo, il segnale è quello lì. Sì, con 80 watt tu già. Bisogna che mi procuro, va? Perché sto usando la dettagli il modello 700 a raghi incrociati adesso. Tanto guarda, Claudio me l'ha promesso, me lo deve dare. Un giorno vengo se li misuri qua. Sai, io già sono curioso. Io lo prendi, è qua, si mette l'armadio, si è dimenticato l'altra volta, è qua, tanto a me non mi serve. Ho detto, ma perché non usi quel VV131 invece di prendertelo lungo? Ma Luca, non... a parte che lo spazio qua è quello che è, perché se vedi dove sono, di mio bombo, non c'è spazio. Vuoi provare a attaccarlo un po', almeno ci vedo giusto con 20 watt. Ma adesso che cosa hai fatto? Con me poco fuori di 9:30, adesso stai andando a picchi 9:40 lì. Ma io? C'ho solo un tastino qua già. Pacca il lotto, guarda. Così è in, aspetta, leggo in logo. E così mi accai di nuovo. Non c'è maluto. Secondo me quello che non è il casino che hai il logo, è per aumentare il watt. Vuol dire, penso che voglia dire alti e bassi, no? Non so. è un mobicon originale questo, non lo so. Ma sicuramente, se tu lo apri, tu mi ti gasto l'esistenza, un giorno lo apri e guardi cosa c'ha dentro, perché non è possibile che esca così forte. Te l'ho già detto, già aumenta un bel qua. Allora il love c'è 9,15, quando metti in HI vai qua c'è 9,25, cazzo mi sono bambi. Allora non so cazzo, però mi sembra strano, sai perché? Perché sto usando un alimentatore da 3 A, da 3 a 5 A, infatti 3 A continuo e 5 di picco, anche se quando sono così in HI si vede l'abbassamento di tensione, però stiamo usando 3 A, 4 A in pratica, dai. Perché non penso che abbia più di tanto di watt, se no l'alimentatore si è abusato. Luca, li misuriamo. Ah? Li misuriamo. Che se passa da 5 a 15 watt, 15 watt e 5 ampere sono più che sufficienti. Pensare che ce ne vogliono molti, io sono, guarda, a 20 watt di portante bianca. Modulati sono una 50ina e sto assorbendo 8 ampermi, non pensare. Aspetta, mi vuoi dire che con 5 ampere puoi usare 50 watt? 50 watt magari di picco forse sì, l'importante no, però di picco secondo me ce la fa, perché guarda, ha provato Massimiliano col C80, c'è un alimentatore, lui mi pare da 10 ampere, e con 30 watt lo porta bene tranquillamente. Questo non sapevo, io pensavo che ci volessero almeno 20-25 watt come minimo per andare a 80 watt, per modulare con 80 watt di uscita. 80 watt vuole 25 ampere, sì, 15 20 ampere per assorbere, però con 15 watt, 20 watt bastano anche 5 ampere, cioè già li porta bene. Studiate le formule. Raccontacelo tu. Per ottenere i watt si moltiplicano il numero di volt per il numero degli ampere e si capisce con quanti watt stai uscendo. Ma noi non stiamo parlando di quello. Come no? Mi state parlando di quanti watt si possono sviluppare con un certo numero di ampere. Basta che c'hai gli ampere, moltiplichi per il numero di volt con cui sta uscendo l'apparato e c'hai gli ampere e c'hai i watt. Tu non sei attento, continua a non essere attento. Io gli ho detto che una radio che ha 10 watt, 15 watt, bastano anche 5 ampere, non ce la fa, magari ti abbassa la luce della radio, ma lo porta lo stesso. Allora, 10 watt, lo devi dividere per 12 e capisci quanti ampere ci vogliono. E allora continua a non capirmi però. Sto capendo cosa stai dicendo, comunque tu stai dicendo quanti ampere ci vogliono per arrivare a un certo numero di watt, giusto? No, vedi che continui a non capirmi, io non ho detto assolutamente questo, ho detto che una radio da 10 ampere, fatta la prova Massimiliano, con un alimentatore da 10 ampere, con 20 watt di portante bianca, i 10 ampere erano più che sufficienti. Con 10 ampere ti sto dicendo che puoi sviluppare più di 100 watt, 120 watt puoi sviluppare con 12 volte di radio. Quindi ho ragione io, se lui ha una radio che dà 15 watt, sembra che sia perché passa da 15 a 20, 22, quindi più o meno sono 15-18 watt in più per lui sta dando a quella radio. E c'è un alimentatore da 5 ampere di picco e non glielo siede, vuol dire che sono più che sufficienti. Sì, per 15 watt ne bastano anche 2 di ampere. Quindi vedo, ragione io. Ce la fai tranquillamente, magari ti si abbassa la luce, però non sono più che sufficienti, perché la prova l'abbiamo fatta così 80 di Massimiliano, non lo siede, comunque è un po' sofferente, ma va bene lo stesso, capito? Sì, allora, la luce dell'alimentatore non si vede neanche, non si abbassa neanche, dell'alimentatore c'è una luce rossa, però quella del bacchino sì, quando modulo in HI, quando la metto in logo no, non rivedo più nulla, anche modulando. E se te tu riesci a, o non si può, dico una stronzata forse, si riesce a capire, come mi ha dato il controllo Claudio, che passa da, per dire, da 10 a 15 dB, quanto il watt sta uscendo? La differenza tu stai dicendo? Per esempio, se io metto in HI, in Love, che è più bassa la cosa, e poi metto in HI, gli aumenta di 10-15 dB. Cioè un salto di... dovrebbero essere almeno 5 watt. Sì che è giusto, cioè è originale, perché così guarda, schiacciato. Ecco, così è in Love. Così in Love e mi accende senza modulare 6 LED. Se lo metto in HI mi accende tutti i LED. Perché c'ha sia l'orbita che i LED questo, capito? Se passi da 9,20, da 9,10 a 9,20. 10 dB, corretto, come dicevi prima. E sono 5 watt. Eia, sono 5 watt. Come sbaglio di più. Qua passa da 9,15 a 9,23, quasi 25. Scusa, ma tu non ce l'hai una, vabbè, una pinza amperometrica, mi sembra assurdo, un segnalatore di quanti amperi ti sta mangiando? No, c'ho solo lo strumento ad aghi incrociati della ZG modello 700, che a guardarlo c'ha il segnale stazionale e quello trago, ma quando lo modulo va a fondo ottavo, non so che cosa significa, però non lo conosco. Ma devi avere anche un selettore per i watt, ci sarà 5, 20 e 200 watt. Sì, adesso infatti è, aspetta che c'è la luce, adesso sui 10 watt, fa solo tre cose, 10 watt, 100 watt, 1 kilowatt. E metti a 100 watt a vedere come fa. Allora, se metto a 100 watt mi scende tra lo 0, tra lo 0, qui c'è una pacchetta in mezzo, 1, e supera la pacchetta centrale, ma di poco, tra lo 0 e l'1. Sì, ma tu dovrai avere le tre scale, cioè avrai la scala dei 10, la scala dei 100 e la scala del kilowatt. Adesso ho messo in 100 watt, non è tutto qua. Esatto, però nella scala che vedi dove c'è la lancetta, sicuramente ci sarà una scala diversa per ogni misurazione che stai andando a fare. Esatto. E quella lancetta lì è salita tra lo 0 e l'1, se io metto a 10 watt, sta a fondo, sale a fondo scala. C'è scritto, adesso non so, c'è scritto 9 watt praticamente, cioè quando scala a 10 watt, questo arriva a 9,5, se è così. Dammi il modello un attimino che me lo guardo su Google. ZG Mondo 700. Cioè in scala 10, non ho capito, in scala 10 ti va quando scala con la seconda, quando metti in HI. Allora, aspetta, faccio questa prova. Allora, adesso metto, abbasso in HI, adesso abbasso in 9, vediamo un po', così segna 9,5. Penso, vediamo un po'. Che cazzo. Così è sceso a 1,5, è andato a 1,5. Se aumento va fino a 9,5, sale. Boh. Ho detto che sono 10 watt, ancora non ho preso, sono 10 watt, non 5. Non conosco neanche questo strumento che mi ha prestato Franco da K1 nel controllo stazionario, però come cosa di fatto non lo conosco. Wow, a logica dovresti aver detto in logo 1,5 watt, HI 10 watt, logicamente dovresti avere 1,5 watt e 10 watt. Adesso faccio una ricerca su internet, vediamo un po' se c'è qualcosa che spiega questo HI Love, cosa vuol dire. Qua c'è DW, chi l'ha difficciato, non so cosa vuol dire. Il Love sicuramente è 1,5 watt, e in HI è a 10 watt, per la verità scendo 10 watt, non passi da 5 a 10, è troppo alto, è troppa la differenza. Da 5 a 10 watt che aumenti 10 dB, tu vai da 1,5 watt a 10 watt con quella ratio, tranquillo. cose passi, mi ha toccato. È nuovo, nuovo, mi ha dato la scatola, il cavo, il microfono originale, è nuovo, non c'è neanche un graffio. Me lo sono aggiudicato da USB a 23 euro. È così il mobico, è così, un watt e mezzo a 10 watt, deve essere così. È così, perché, guarda, io ho un VHF che c'ha l'OVHI, un VU, un 701 che la chiamo. Allora, il LOV da un watt e mezzo, ok, un watt e mezzo. In HI invece da tutta la potenza, 25 watt. Aspetta che lo capisco. Questo no. Sto cercando adesso le caratteristiche, quanta, in originale quanti watt cambia in HI e LOV. Aspetta che l'ho capito. Allora, quando tu metti lo su 10 watt, schiacci e tira dal fondo scala. Allora, sì, esatto. Non arriva a 10, arriva la tacchettina appena prima di quella del 10. Quindi stai uscendo con tacchettina prima e quella è 9. Quindi stai uscendo, la tacchettina prima sarà 9 e mezzo, adesso non lo vedo qua in foto, 7, 8, 9, no, da 9 watt stai uscendo in low. Allora, la tacchettina dopo l'8, ne ha una piccolina piccolina, poi ne ha un'altra appena più grande. E 10 watt. Ecco, la sto facendo 9 adesso, vediamo un po'. 9. Così come mi hai spiegato tu. Se metto invece in... Se abbasso la potenza, aspetta, Se metto 9, scende all'1,5. Cioè dovrebbe essere 1,5, sì. La tacchettina c'è tra l'1 e il 2. 1,5, allora c'è una differenza di 7 watt. Dici che 2 watt e mezzo o 10 watt? No, 1,5, 8,5, 7 watt. Così è troppo la differenza per l'OVHI, quindi 1,5 watt, 2, quasi 9 watt, insomma, quasi 10 watt, una cosa del genere. Perché è una bella differenza, capito? È come il VHF che ho io. In LOV da 2,5 watt, poi in HI da 25 watt, un 701 della chemo del vecchio modello. E così è così. Gianni, non dormire. Gianni. L'hai detto troppo tardi, fra. E chi l'ha detto? No, vedete, c'è, vai. Ma ci sono, però c'è un po' di tachicardia, boh. Come mai? Mi stress, boh. Un po' di stress c'è addosso, boh. Anche perché oggi non mi sono riposato, troppo pranzo. Perché c'erano loro che erano con il cassetto matrimoniale e non mi sono buccato, se no mi pigliavo d'ora a mal di pancia e via dicendo. Allora mi sono sdraiato nel divano, non sono riuscito a riposare, poi sono uscito di nuovo per andare in farmacia, fu tutta la maladana, cioè non ho riposato. Sì, ma è il tempo. Uia, uia. Dice che domani cambia, boh, speriamo, non c'è un po' di cose da fare su, ma lo trovo il palo tutto il tempo per aprire, boh. Ciao, Grondino. Eh beh, Gianni, e comunque lui, ti bastano pochi, per quella cosa, per 8 watt ti basta un ampere e mezzo e sta andando senza nessun problema, un ampere e mezzo, 2 ampere. Meglio così, almeno sappiamo che sta uscendo appunto conto, eh? Leggo 9, 8, 9 watt. 9 watt così, praticamente. Potenza massima? Sì. Sì, perché se abbasso scende a 1,5 watt. Se alzo, cazzo dice a sopra tutti. Ma che cos'è? Un Mobicom, che modello? MB40. Io c'ho il 45. Dentro questo c'ha una schedina. Lui era perché me l'aveva dato. Andavamo assieme. E lui era perché. Ho fatto da 26. E quindi mi ha venduto anche il 131. Ehi, allora, non siamo andati assieme. Ma tu eri quello che mi ha venduto il BV131 e l'MB45. Sì, il mio fratello, tempo fa, sì, esatto. E poi aveva anche riscontrato nessun problema nel BQ131, ma non era così, infatti l'avevate visto da voi, perché mio fratello poi tra l'altro aveva dato un radioamatore a provare prima di mandarmelo per venderglielo. No, c'era risaldato il filo dell'alta tensione. Ah, infatti cioè, mi preoccupava la cosa, perché mi ha detto guarda, guardate questo radioamatore, l'ha provato e si funziona benissimo. Sì, forse l'ha provato con un apparato e gli ha un attimino si è scaldato e gli ha risaldato il coso, però ce l'ho qua a fianco, è ottimo. Il BQ131 è ottimo, lo stesso è il Mobicon che c'è qua su, il 45 va benissimo. Allora anche quello che c'ho io se non l'ho salvato col filo. È possibile, quando si risalda il filo dell'alta tensione non innesca più, non attacca più il coso, come il relay. No, il mio attacca, però non da batti. E quello è comunque, quando si attacca il filo dell'alta tensione, è un filo scoperto che ti passa dietro in un circuito stampato. Se è vero. Io devo comprare della valvola, ragazzi. Tu, prima che lo metta sciolto, lo controlli allora, di nuovo, nuovo. Va bene, va bene. Comunque lui, è così il discorso, quanti è cantoni? Un fatto e mezzo, non per fatto. 10, 8, 10, insomma non cambia nulla, però ripeto, quell'alimentatore è più che sufficiente, tiene Dio e vai avanti così, ok, avanti doppia rotta. Quando lo dice io che mi c'è stato detto una giacca del lupo, e poi tutti quanti prendono il BQ131. No, io ce l'ho sempre avuto già, ma avevi chiesto, però non ho trovato perché l'avevo preso per il DAC che c'ha pochi watt, capito? Poi avevo cambiato le valvole, invece anche quello da una decina di watt, quindi sono più che sufficienti per citare. Però io ho anche il 130 che c'ha due valvole, BQ130, il vecchio modello che è un pochino più largo del BQ130, ma c'ha due valvole. Con quanto è? E io uguale, ho già 120 watt. Poi lo si fanno distorcere la radio, ecco per quello che è bello. Okay. Ma se io faccio delle prove a 26 e poi vado a 28, i watt dovrebbero cambiare. Già lo dico, sì. Ma se la banda superiore a quella inferiore, già lo dico, diciamo, sì. Voglio fare delle prove adesso. Ti sento? No, stavo provando, adesso sto uscendo con una cinquantina e mi segna infatti 20 ampere circa. Che ho detto, mi hanno fatto Massimiliano, anch'io sono con 20 watt importante bianco, ho 4,30 modulati, c'ho un picco di 50 sulla T250, gli ampere sono neanche 15, 13 ampere, 12 ampere, però perché c'è la portante bianca a 20 watt, se la metto a 50 watt cambia lo stesso. Lascia vedere. Perché stavo leggendo di forum che con una semplice modifica tagliando dei ponticelli che ci sono dentro va a 10 watt. Cosa? Questo. O gliel'hanno già fatta quella roba lì? Sì, ma te l'ho detto, una decina di watt, 5 watt è un troppo poco il cambio che ha. Però tengo conto che il troppo sia un watt e mezzo, poi vai anche a IVA e a 9 watt, è chiaro che la differenza si nota. È normale. Se fosse da 1,5 a 5 si noterebbe di meno, però qua si nota parecchio. Da 15 a 22 sono tanti, io sono distante, quindi è così, è così. Guarda adesso quello che si sta arrivando qua. Roma già? 1, 2, 3. Sì, 9,26, 9,27. Caffè più o meno. Faccio un attimo, aspetta. Mi sento un attimo. Sì. Ce n'è uno su Kijiji che ha messo un dissipatore dietro. Io ne ho dissipatori di quelli stretti da 4 cm con le ventoline dei portatilini, ma sono curioso da mettere dietro questa radio. Ma già, cazzo parito sì. C'è un cazzo fatto sì, un watt. Quanto watt sì? Guarda adesso. Ehi, alto sì, sempre il segnale con quella radio qua. Faccio sì, più di 9,20. Che appagato. Adesso è positivo, guarda, positivo. Anche nel watt. Ehi, no, un bel alto sì. No, ma anche qua siamo in positivo, guarda. Non c'è problema. Non ti dico che cosa ho fatto. Vabbè, aspetta, vediamo un po' com'è. sei sciattiro, vuol dire che hai aumentato troppo la potenza della radio. Non lo so, più lo fanno male, perché qua è saturissimo. No, qua no, poco fa no, adesso sì. Capitale di uomini, ho speso 400 euro di cavi. Poi è abbastanza tutto lo 10-48, ma la faccio io, c'è un pavaraccio e su Mattesi. E già, ma tu ne hai di meno, non di cavolo, bisogna 50 metri. 50 metri sono tanti. E poi il mio cammina dentro il pluviale, quindi ci vuole cavolo grosso, se non lo 10-48 si distrugge, è sempre a bagno d'acqua, troppo fine. Così come ce l'hai tu va bene, quando era non ho piano io usavo le 10-48, non usavo le G. Quello 213, dai, io c'ho il Belden H1000, c'ho tre carate di quello, categoria 2, 80 metri, fai un conto, va 50 metri, tre carate a 50 metri, sono 150 metri, a 2,80 canto quasi. 5x3,15. Fate il conto. 5x3,15, no, sono 50 metri, 50 metri, 50 metri, sono 150 metri di cavo per 3 euro, quanto fa? Un bel rinascio. E io non li avrei mai spesi così. Ma io qui il cavo grosso l'ho sempre avviato perché mi faceva poco degli strumenti e così, io l'ho visto a casa di altra gente, tutti gli strumenti fanno riduci, invece con le 10-48 sono sempre andato bene, come un inizio rimane, invece lì si sono bisanti e ti fanno muovere tutto. Sì, già le regie 8, 213, ma il Belden e questo, l'H1000 e il 510 sono morbidi, più morbidi delle... da me non è visto questo, girano sotto, entrano, no, non si muove nulla, è proprio morbidissimo. E beh, se vai a prendere le 213 o le regie 8, qui si sono tettari, questi sono carri morbidi, morbidi, morbidi, proprio morbidissimi, non ce n'è problema. A me non fa perché è troppo la carata, è troppo, poi ripeto, cammina dentro più vale dell'acqua e quindi con il tempo si marcisce il capo, ci vuole il capo con la guaina grossa, doppia calza, io ho il rivestimento in alluminio dentro il capo, non so se l'hai mai vista, c'è proprio l'alluminio, qui c'è la calza, ricoperta l'alluminio, il centrale è rigido, non è filettato, è rigido, il rame è rigido con una gomma che la devi tagliare con la con la taglierina, se non taglia, non ho dovuto prendere per forza quel cavo, e se no per ogni anno devo facciamo a cavo in occhio. No, 50 minuti sono troppi per le 50, io ne ho la metà, anzi di meno della metà, ne ho 23 metri. Sì, certo, già, 18 metri, 20 metri ce l'avevo quando ero non piano, io figurati, andava benissimo, ho sempre usato quei cavi lì. Una volta ho fatto una prova, io figurati UHF, col cavo fine, non c'avevo il ponte segnale 7-8, R0, che è un monterraccio, che ce l'ho davanti. Non ho cambiato il cavo, che ho messo la camilla a fondo scala, che c'è una differenza. Gente. 10. E beh, quello rivestito di acce vera che è spellato, lì te lo fa vedere nella foto. C'è la doppia calza, poi rivestita con l'alluminio, la gomma un bel grossa, come isolatore, il centrale in rame, rame rigido, l'hai visto come è fatto? Sì, l'ho visto, visto. E quello ci vuole, per me, perché ti ripeto, cammina, scende 40 metri dentro il pluviale dell'acqua, quindi è sempre a bagno a leva, capito? Mentre quello che invece c'è sopra nel tetto è dentro il corrugato grosso, i carri camminano tutti lì, se non arrivare al pluviale dell'acqua. Qui aperta la finestra, c'è una finestrella, entrano tutti nella finestra. Esatto, il pluviale è come passa a caso, là. Eh beh, mica ho adesso un bindurone in barobarazzo, no? Ho fatto passare lì, mi sono messo a quello con il trattore, ho detto Riccardo, devo fare un buco dal tetto della mia finestra, e vai, vai, vai, passano per il gallino, e tu sei pericoloso. Quando la vicino, mi ha detto, che? Ma che hai fatto la finestrella per il gatto? E l'ho toccato la mano, per entrare per tirare i calci. No, non le metti un tappo, e poi di qui un tappo, e io devo passare il cavi. Prima uno, voi due, voi tre. Perché poi hai quelli del rottore, così anche. Sono quelli del rottore e dell'alimentazione, e i cavi di discesa ce ne sono sei, più due del rottore sono otto, poi ci sono 2,58 che uso per i ricevitori, e io venne i cavi. Sul tetto tutto ordinato, tutto bene, anche nella finestra, no? C'è questo pezzettino dove sono, escono tutti, poi tutti fascettati assieme e portati dentro, dentro il foro della, del muro, capito, della finestra. No, già è un bel lavoro, non mi ha mai detto niente nessuno, solo che è sempre aperto il tappo, capito, non l'ho chiuso quest'anno, perché stavo facendo lavori, tappa e tappa, l'ho lasciato aperto. Quando piove, lo sai, mentre invece la sciringata di leva, lui fare il gatto, invece era bomba a bestia attaccata alla finestra. Che cazzo è l'acqua, no? A me, no, dal foro del pluviale, no, che deve arrivare a terra se è chiuso, perché c'è il tombino. Invece arrivi a terra, esci che sta sciringata leva, il gatto dallo dubbio di rigavo, e pare che sia una bomba a bestia. Maria. Ah, perché no, non l'hai siliconato per passare eventuali altri cavi, usi? No, c'ho un tappo, quando ho finito di fare i lavori le metto un tappo, quest'anno l'ho tolto il tappo, non gliel'ho ancora messo. E poi mi è iniziato a piovere, cazzo, tutti quanti, cazzo, ma hai visto la pluviale? E io metto tutti buoni sotto, passa largo. Vicino a una fontana, a bestia lo assone, cazzo ne ha mandato a leva. L'altra volta c'era, come cazzo si chiama, stavo più a Robertina, e gli ho detto, mi ci vuoi leva a piovare a baffare a bava, mi cazzo adesso metto il secchio. E poi quel cavolo la camilla è un centimetro, vediamo, tocca così. Grosso, allora io quando lo spello il nero, la gomma esterna, le faccio il taglia gomma, no? Lo metto dentro e fa per il 58 per quello grosso, lo giro appena e poi lo tiro fuori. Per tagliare quello di dentro, quello bianco, proprio il rivestimento che c'è del centrale, o lo tagli con la taglierina, cioè con la tronchesina, se no con la taglierina non ce la fai a tagliare. Poi due pinze, una pinza a pappagallo che mantiene il cavo e l'altra pinza a pappagallo che stringi il PL per farlo entrare dentro, se no col cazzo ce la fai con le mani. Sono ottimi cavi, io vengo da Eva, sono ottimi cavi veramente, pure il rame, no, cazzo, c'è l'argento che metti pure il RG58. No, il RG58 va bene per pochi metri, come c'ha Gianni, sino a 25 metri. È un ottimo cavo, quello U, è un ottimo cavo, io ce l'ho quello lì, ho due carate di quello che mi servono per VHF che ho, il 701 veicolare, che lo tengo così di scorta per ascoltare, e c'è un X50 e va benissimo, non c'è problema, non hai grandi pretese, ma con gli HF, cazzo, se non c'hai i capi buoni no, non va bene, assolutamente, non va assolutamente bene. Reggete, 213 viene, 2 ore e 49. Fatto il conto, 213, detto per 40 centesimi in più, cioè una camille. Ah sì, già mi è tornato sì. Io sono qua. Oh già. Io. Allora, tu hai messo i radiali in alluminio nella mantova così e tu c'hai quella che ho io nella mantova 1. La 5. La 5 c'hai, vabbè io ce l'ho una mantova 1. Allora io voglio tagliare i radiali in retrovesina, no? Le lascio praticamente 10-20 cm, bastano per entrare poi quelle in alluminio fine, incasso bene dentro, e poi le metto le faccio il foro e le metto i bulloncini passanti. Se vuoi fare un lavoro fatto bene, tu di quello che c'è all'interno, li togli completamente, e non svitti. Allarghi il buco dove infilavano i radiali e li fai il buco con il radiale inserito di modo che combacino qui e poi li metti in bulone passate sempre in acciaio. Sì, c'è una bustina dei buloncini piccolini da 1,5 in acciaio con le rondelline, ma glielo lascio il pezzettino suo. No, servono solo praticamente le cozze, quelle per inserirlo, per bloccarlo, dai. Quelle lì e basta, ti devi tenere. Te lo devi sedere in fichi dentro, perché l'hai avvitato in modo che non balli, no? Comunque io ho messo anche dei pezzi di lenza, l'ho legato della lenza per tenerli, perché sono pesanti quelli in piedi, capito? No, io ce li ho vuoti, capito, di un'antenna che avevo tolto via Pascoli e li ho visti in garage proprio l'altro giorno, sono andato a mettere moto la moto, li ho visti, ce n'è tre, non mi sa che li rimetto, sono nuovi, non sono molto lunghi, sono da 1 metro mi pare, li rimetto e li tolgo quelli in vetroresina, perché intanto è già consumata la vetroresina, perché l'altra volta c'è una lanetta l'antenna e ho detto che tu rigura la resina e manta le mani. A me mi appunto. Da puzzolente, anche a me mi appunto il dito, un prurito, cazzo, tutto il giorno. Me li rivolgo, o li ritolgo e li rimetto in alluminio. Li metto in alluminio, lo faccio un bel piano di massa, la pulisco tutta e poi la tiro su. La tiro su 3-4 metri, adesso è un paio di metri neanche. Un metro e mezzo sarà dal piano del tetto, se no ci avevo altro ancoraggio. La faccio, la metto bene e così la lasciamo stare lì dove rimane tranquilla e serena. Nuova, solo che si è rotta la vulcanizzante, cazzo c'è piena leva, ma Eva, minimo quanti metri era antenna, 7 metri, minimo 5 metri, di dubbio viene leva. Comunque se vuoi fare un lavoro definitivo metti dei ripieni radiali, intanto costano una cazzata. Poi da Brincon e li compri, ti vengono tutte le misure, li compri, li fai a misura e fai una spesa una volta e non ti ritagliano più le cornacchie, ti metti la lenza per tirarli, per tirantarli. Faccio così, non mi faccio un giro. Prendo qualche soldo, mi faccio un giro, devo scendere anche dai cinesi, e mi prendo quelle cuffiette piccoline per l'MC85 e per la V808 già. Stavo premendo il tasto del computer. Ehi, cazzo. Oh, mi ho dovuto segnare così, avevo i segna quadri. Io butto all'MC60 del 140 1 perché inizia con 140, a quello del 430 aggiù butto 4, a video del 7004 aggiù butto 7, cazzo una volta sbaglio il microfono. Che succede? Ma io tu già sei in fase di arrivo, per arrivare col microfono, allora vedi che sono? 216 pure ce lo sai, 169 spedizione, anche a quello colossale, 212 17, ma a casa da 120, cosa 169 euro è 1 euro quasi 70 al metro. Grande affare, io ho una radio, già l'ho vista mondiale, più grande delle 7.000. grande radio, bellissima, l'ho comprata proprio a strato baratto, stavo spendendo una barca di soldi, invece con quella ho risparmiato, me ne sono uscite due di radio, io ho fatto un affare. Sulle altre cose che ho preso non ho fatto nessun affare. Strana, chiamami se ti posso aiutare volentieri. dice ancora. Però non è fatto di aiutare, è una cosa che tu ci provi e te sai. Sta accendendo il telefono, sto chiamando con un altro numero. E già rispondo a tutti, io già non vengo, non ha già un problema. Aspetta, prendo un numero da questo. K. A me si è trovato più rotto. Ancora un numero interessante. Intanto cerco la P250, adesso mi sta pensando a metterlo sull'altro 140, costa 228 euro. Bello, eh? È una bella macchina quella, piazza fa la linea con 140, qui ce li ho tutte e due. E magari lo vendi con la P250, non lo vuole spendere di più. Adesso c'è la 140 con la correttore automatica, è un bel pezzo, mi sembra. Però vorrei andare a Franco, cazzo, perché ha fatto un lavoro in via Pasqua, è allucinante, tutto l'impianto elettrico. Aspetta, rispondo a Luca. Non la trovo più. Cos'è il nostro? Quella radio a sintonia continua, era la banda cittadina, una radio americana. Guarda, c'è una bella, si chiama Civicobra 29 Lecce e che non esiste tipo a 48 ultime caratteristiche, si cobra 189 euro, no. Però quello che mi sta fissando adesso, se non è abbastanza, guarda che quello che è adesso è un'ottima radio, tenne di vista che per la banda cittadina è un'ottima radio, non pensavo di trovare di meglio, per la banda cittadina, cioè, quello è il top. Lasciamo perdere quelle superiori a quelle, sempre della stessa marca. Capo, come stiamo dicendo, c'è questa radio, in novità come si chiama il tipo che lo sta prendendo? Beh? E io, che dovresti si incazza. Ma dove lo stai guardando? Subito. No, su lì, si chiama Sfero Viero. Io la sai ci guardo. Dove devo andare però? Guarda, si chiama Cobra 29 LHEU. Sono lì, nelle prime pagine. Aspetta. Cobra 29, di qui. Ce n'è uno da 148 al Regno Unito. 189, ma in Italia? Io. Sì. Ah. Cobra 29 LXEU più modifiche e novità tipo Alan 48 Hold eccetera, 189. È per grande anche, non è il classico veicolare. Parviero 2, oh yeah! Questo è quello che vi stiamo parlando, mi sta piacendo. Bello, molto molto bello. Non mi piace soltanto per lo Smith, che così la scaletta Bacari, dai. Per il resto è bellissimo. Una linea particolare, però voglio vedere cosa fa, non c'è bande laterali che fare. Bande laterali? No, mi sa di no. Non le vedo, MFM, le manopoline del Tatun, RFI, SVR, CAL, volume Squelch, bar. Adesso ho fatto tutte le bande, ragazzi, ci dice. Si scrive anche la frequenza, tutto qua. Dynamic. Però c'è la cosa per comprare il microfono. Ma non c'è il frequenzimetro però. Forse sì che c'è. Ah, eccolo qua. Sì, ecco qua. C'è anche la luce rossa. C'è tanti colori, c'è tre colori in qua. Sì, viola, verde e rosso. Così c'è qua. Però sì, non c'è le bande laterali. Il prezzo è ottimo, eh. Il prezzo è ottimo, mi sembra spedizione compresa, non c'è vedere. Allora, vediamo un po' se è la spedizione compresa. 189, spedizione gratuita, sì. Questo è quello preferito dai camionisti americani. Sì, però per lo Smith non mi piace, solo per quello, per il resto è bellissimo. Per chi lo usa in macchina va benissimo appunto. molto bello, però per usarlo in casa solo per lo Smith hanno inviato, perché non sono precisi questi. Allora, non ha tutti, non ha solo dei sottotitoli da fare, non è un trapianto, c'ha questa, una sorta di classico. Ma è bello. Però quello c'è 100% di feedback positivo. È un negozio, no? Sì. C'è questo President Walker, lo conosci? No, aspetta, guarda un altro. Non l'ho visto con l'apparecchio. Aspetta, sono al telefono con Luca, già, un secondo. Però sto dicendo più Luca. L'hai visto con l'apparecchio per cora? No, non ce l'ho spento il computer. Ce l'ho spento. Ho visto un po' di roba stasera, capito? Una roba bella c'è, però i baracchini, mamma mia, baracchini è un casino, poi non li uso e faccio solo armadio e bombi. Che quando si è imparato con l'acqua è un bel bello, peccato che non c'è male laterale. Non c'è già le bande laterali, di solito non hanno le FM. No, non ha bande laterali. Ma base? Ho la piccola. C'è un bel veicolare meglio in casa. Quegli americani ci pure se c'è un Sears, S650, ho regalato già un po' per l'altro a Gianluca. Ma cos'è un interabisante serratico? Con le bande laterali, la M, però non c'aveva le FM. C'è un Cobra, il venditore si chiama Sparviero 2. No, allora non andava, Sparviero ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Meno male che c'è scritto due, se no, fra, io l'avevo denunciato. Vabbè, se ne è scritto due, non lo so più sempre io, però, No, è un bel baracchino, Danni, svegliati. Vabbè, ma stiamo andando alle tre, buonanotte a tutti. Ci sentiamo domani. Ciao, ciao, buonanotte domani. Claudio. Danni stanno andando a letto. Io vi seguo, dai, sono già le 10:20. Ciao, già, sentiamo domani. Ciao a todos, buonanotte. Maria, ci sentiamo domani. Ok, proprio di tutto. Tu ricordi quel brindisi che ti avevo preso a te? Poi ce l'hai ancora? Il DRL 200? DRL o 210, non mi ricordo. No, il VRL 200, sì, ce l'ho. C'è una Volvo da sostituire, anche quella dentro l'armadio. Sarà bellissimo quello, 120 watt mi sembra. E c'è la stessa Volvo del V131. Oh, quello ne ha due. Due. Ma perché ne ho visto uno qua, su eBay? Se ne vede una però di Volvo. E questo è il modello 200, no, CB amplificatore Brini 200, c'è scritto, è una valvola sopra, questo. No, quello c'è io, il DRL 200, c'ha due valvole. Cazzo, sei sicuro? Anche questo è 200, è una valvola con la ventolina dietro, trasformatore, due valvole proprio per la struttura che non ci sarebbero neanche. Il 200 c'è due valvole, come il 230. Allora questi si sono sbagliati, ma c'è scritto CB amplificatore Brimi 200. Quindi è CB nuovo, monovalvola, 100-120 watt funzionante, monta una L519. Il mio c'è due PL509. No, completamente diverso, sì. Vabbè. Ok, dai, io ti saluto, spiego tutto, troveranno anche il tuo film invece fino alle 5 e niente, ok, via, vado mai a fermo anch'io, mi guardo un po' di TV. Ok, ciao ciao, ciao, buonanotte. Ciao Luca Alberca. Sono tenuto più tra le vicio, un taglio se va dentro in vivo. No, è lo strano che stavo riparando il cellulare e poi alla fine cazzo va a fare un culo. C'era tutti i display rotti. A fan Napoli, tutti i display rotti. ce n'è uno che fa, però si vede che è stato un po' spaccato e non glielo piazzato. Adesso cerco di buscare un display. È nuovo questo telefono, nuovo. Guarda quello, vabbè. Ah, sì. Più smontata di sciarata. La te la potete mettere il bestia. No, io se tu mi dai uno di quei telefoni lì, io lo faccio vedere, no? Dico, mi lui smonta, poi te lo rimpiazzo. Tranquillo che non ti lascio manco una vita. Questa passione lo devo dire. Su progresso. Ah, sì. Senti, che gli volevamo dare tutta la fazione là, per usarla, e non la può. Ma vuole? Io gli davo antenna, microfono, alimentatore, insomma io gli portavo il baracchino, invece non li può. Abile e culo. Ma io non te ne sa più. Catti la valigia, con la tua baracchina. Carino. Già, poi, vedi se go. Sono già qualcosina. Fermo con qua, amico. Vabbè, oggi vuoi la purtroppo, la vita è quella che è, mi devo prendere come lei. Capito, mi hai? Ok, va bene, dai, alla mano. Ciao. Ciao, ciao, il video che ce l'hai? Ehi, tu. Il video l'ultimo che ti ho mandato, questo vai. No. No, l'ho visto. Controllo, poi domani arrivo e te lo rimando. Ciao. Ciao.